qui in Italia, Juve Inter no, Juve Milan sì, però per i torinesi, per i piemontesi, chi è piemontese lavora a Milano può vedere la partita, gli altri no, l'Atalanta porte chiuse, la domenica dopo i tifosi dell'Atalanta vanno a Lecce, cioè è follia, in Italia è solo follia. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Quando parla il presidente dell'Inter, il presidente di Lega e vicepresidente federale, ci sono altre modalità, non su Instagram, non con una stories, non con quei termini. Non gli dai del pagliaccio, perché non si dà del pagliaccio. Beh, io non posso la pensare cosa, che la sia cosa che però si può dire, che credo che questo sia un messaggio personale. Un giovane dirigente di 27 anni, che questo lo do per certo e per un sicuro. Un giovane dirigente di 27 anni che ha fatto ma anni. Ma fai finire o no? E finisco un attimo. Cioè. Zango voleva le porte chiuse e basta. I tempi, lui non contesta quello. Zango volevo osservare una regola. No, no, no, che quale regola? Di dare una partita. Quale regola? Sentiamo, di pensa, ma di che cosa? Ragazzi, prego. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, certo di dormire è una forma d'arte. Ci risponde Marotta, che dice noi contrari e tutto come prima, quindi contrari a questa ipotesi, vi dico, mi sembra una notizia, noi contrari. Di giocare lunedì? Adesso di giocare lunedì? È tutto come prima, che cosa vuol dire? Ma che non abbiamo la data di Juventus Inter, mi sì, pare credo di capire. Che la posizione se di Marotta torna il 13 sia... maggio o si torna a lunedì, cioè non ho capito. Che? C'è un problema. Scusate, che sta succedendo? Eh già, ragazzi, che cosa sta succedendo? Copertina mitologica. Cosa sta succedendo? Allora, canzone straordinaria, cioè Morgan. Vabbè. Intanto facciamo una bella cosa. Siccome yes. Morgan e Bugo erano due dilettanti in confronto a Steven Zang e Paolo Dalpino, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, state con Morgan o state con Bugo. Così, un mese dopo dobbiamo decidere chi ha ragione dei due, perché è diventato improcrastinabile. Tra Morgan e Bugo? Poi decideremo anche chi ha ragione fra Zang e Dalpino, tra sto, Marotta sto e Dalpino, Morgan, come fa, cioè, tra Barone e Udinese, perché qui sono tutti contro tutti. E poi tutto questo Barone ieri a Tichitaka che ha detto sì, però in tutto questo non vorremmo giocare la sera. Sì, ma il pomeriggio. Ho detto Barone, perché abbiamo avuto anche perché ieri è chiuso l'aeroporto. Un appello perché... all'unità, perché devo dire che la Fiorentina non va dimenticato, esattamente come il Verona a Genova ha saputo del rinvio della partita, sì, con la squadra già sul posto. Questo tanto per dire l'assurdità di queste ore. Questo però per dire il casino. Sono anche ore di emergenza. Tra 24 ore saremo qui a raccontare il The Royal Rumble, perché alle ore 12 domani si riuniscono tutti in una sala a Roma. E secondo me dovrebbero vendere i diritti TV, carissimo Marco Bellinazzo dell'assemblea, cioè, di domani. Io spero che non escano di lì, se anche ci vogliono, non so, 48, 72 ore senza una decisione condivisa che ripristini quantomeno la regolarità, diciamo, del campionato, nel senso di ripristinare un calendario condiviso da tutti. Poi lo dico, stamattina tra l'altro non posso dirlo, ho ricevuto la telefonata di ringraziamento del presidente Balata per una cosa perché banale, in Serie B il virus non attacca, no, banale, che però io dico, cioè attenzione, esiste il calendario del campionato di calcio e poi esiste la sovranità assoluta, non ce lo dobbiamo dimenticare, dei virologi, degli scienziati, della protezione civile e del governo. Il governo deve essere libero fino all'ultimo momento di dire che una partita a porte aperte per motivi ovvi di salute pubblica anche un minuto prima di chiudere gli accessi allo stadio, cioè sì, questo, perché... la sovranità del, ma non voglio dire del governo, dico della scienza, dell'autorità, delle regole ci deve essere, questo è indiscutibile. Allora, intanto saluto Giacomo Ciccio Valenti. Ciao Ciccio. Ah, quanto tempo. Ciao, quanto tempo. Ciao, come Pierre, Marco, quanto ciao, tempo. Voi. Allora, perché questa ipotesi di accordo, permettetemi la copertina, vai, di Bugo e Morgan, è tanta roba. Ma ha ragione Bugo o Morgan? No, fatto? Allora, Morgan e Zang. Facciamo, l'ha fatta Ferronato con Claudio Scattone. Allora, Morgan e Zang. E Bugo, sì, è Dalpino. sì. Dai, gli va bene, eh? Facciamo certo, così. Certo. Chi ha ragione, Giacomo? Allora, secondo me c'è un nocciolo fondamentale. Fondamentale, al di là, io ieri sera non condivido i modi perché non conosco D'Alpino e quindi non mi sarei mai permesso di dare dettagli. Bello che non lo conosceva nessuno fino a sabato a mezzogiorno, allora, nessuno al di fuori, diciamo, degli addetti ai lavori. Sono Antonio Giovanni, che la salute, come diceva Pier, è la cosa fondamentale per me che sono figlio di mamma di 80 anni. Io penso che sia una situazione che assolutamente è comune a tante persone. Quella è la cosa fondamentale, mettere 200, e queste purtroppo sono statistiche, 200 possibili contagiati dentro uno stadio da 40.000 persone, in questo momento mi sembra una follia. A questo punto, quello che viene fatto da Zhang, al di là dei termini, che ripeto, non mi appartengono quei termini, ma nel concetto fondamentale è stata una accusa diretta verso una persona che non ha preso in mano la situazione e che non ha concepito niente in materia. Questo è quello che secondo me è venuto voleva fuori, dire Zhang, che non c'entra niente il fatto di uno essere interista juventino, no infatti non c'entra assolutamente niente. Quando si parla di salute, io penso che qui bisogna no. che si parta da un principio. Quando ci sono queste situazioni così caotiche, allora ci si siede a un tavolo e si stabiliscono le linee di priorità. Ora, noi ci troviamo di fronte, non perché noi siamo virologi, ma perché da giornalisti dobbiamo studiare e leggere questa roba, di fronte a un virus che uccide in minima parte, che ha un livello, come dire, di mortalità molto basso. Ha però, a differenza delle semplici influenze, un livello ospedalizzazione di contagio alto. E soprattutto manda quasi il 10% dei contagiati in terapia intensiva, che poi la maggior parte guariscano, è la cosa fondamentale, ma finché guariscano è necessario che ci siano i posti in terapia intensiva e rischiano di togliere posti a altre persone che hanno altri problemi. Affinché ci sia questa roba qua, è necessario evitare cosa? Che ci siano aggregazioni, e quindi anche partite di calcio a porta aperte, che in qualche modo incentivano, facilitino il contagio. Allora, il ragionamento del presidente dell'Inter Steven Zhang, che poi sbaglia a dare il crown al presidente del Lega Calcio, perché non lo si fa, e questo è un errore di gioventù, chiamiamolo così, frutto del momento, ma comunque sbagliato e inaccettabile, dice una cosa sacrosanta: qui ci state prendendo in giro e stiamo prendendo in giro tutti, nel momento in cui mi dite che l'8 si gioca a porte chiuse e il 9 semplicemente a porta perché aperta. L'ordinanza scade a mezzanotte, cioè, si gioca a porta aperta. Ci sarà un giorno in cui, scusate, io allora poi vorrei parlare del fatto di Juve Milan di domani, perché io lì sono allibito, ho letto il tweet di Burioni, l'idea che domani a Torino i bambini non vadano a scuola ma la sera possano andare allo stadio se sono residenti in Piemonte, è un'idea che un minimo di dubbio, diciamo così, mi fa abbastanza impressione come tipo di situazione. Detto questo, che poi arrivi un giorno in cui finisce una cosa, cioè che arriverà un giorno in cui il famoso scade scalone. Il divieto e il giorno dopo si può, cioè, fare una cosa che alle 23:59 si può, quello che è vorrei dire, visto sì. che siamo una radio alta, radio 24, sì. sento Barisoni tutti i giorni, cioè questo, il problema vero secondo me sta nell'umoralità del nostro paese. Il nostro paese domenica scorsa, 9 giorni fa, ha assaltato i centri commerciali in preda al panico. Abbiamo visto il Premier Conte in 18 programmi televisivi diversi parlare come se stesse arrivando la fine del mondo. Poi dopo 2-3 giorni, di fronte a dei numeri di contagi normali, c'è stato tutto un vento, Milano che riparte, i video, giustamente le aziende preoccupate, eravamo gli unici al mondo a dare quest'idea, siamo diventati agli occhi degli altri degli untori. Però voglio dire, nel momento nel quale abbiamo cominciato la nostra quarantena, è 2 settimane di questa quarantena, secondo quello che dicono i virologi, cerchiamo di farla bene. Sì, poi c'è anche quell'altro problemino, che ad oggi, e vorrei sapere cosa ne pensa Ciccio Valenti, tifoso dell'Inter, c'è ad esempio un club che se dovesse arrivare in fondo non ha lo spazio per fare 38 partite di campionato, ma si ferma a 37, ma che è un cortocircuito clamoroso secondo me. Questo è nulla, scusami, di fronte al problema legato alla salute, questo è un problema, sì. ma non secondario, è nulla, non c'è la torta. Ma questo non c'è dubbio, Ciccio, torta, però qui stiamo parlando di calcio, abbiamo altre 18 ore di palinsesto, ma siamo di fronte, scusami Giovanni, siamo di fronte a una fase che la nostra generazione non ha mai vissuto in questa gravità, mai. Va bene, ma allora Ciccio, scusa, perché l'Inter anche adesso, per dirti, non vuole giocare il 9 marzo? Non ho capito, scusa. Perché l'Inter, allora, ad esempio, E condivido il tuo ragionamento, non vuole giocare il 9 marzo, perché poi noi di questo ci stiamo occupando. Allora, l'Inter, secondo me, non vuole, l'Inter voleva giocare una partita fissata con delle regole, come diceva Marco prima, perché ci sono delle regole, come diceva Pier, se ci sono delle regole, quella partita era fissata. Il perché sia stata totalmente spostata facendo degli slittamenti, questa è una cosa che ancora c'è oscura. C'è stato qualcosa da giovedì, quando prendono la decisione, a sabato mattina, ed è cresciuta questa notizia, lo sapete benissimo, insomma ci siamo svegliati con la possibilità, poi al caffè delle 10 era più di una possibilità, poi prima del buffet di mezzogiorno, che è sacro, quello del sabato, era cambiato totalmente tutto. Questa è la verità. Il buffet è sempre sacro, Ciccio, qualsiasi ora. No, però posso dirti una cosa, secondo me, io in questo sono meno complottista, nel senso, io credo che ci sia stato, ma perché l'abbiamo raccontato anche noi in radio, anch'io ho detto, penso di aver pronunciato queste parole giovedì o venerdì, ho detto trasmettere in tutto il mondo Juve-Inter a porte chiuse, in un momento in cui hai il classico con 80.000 persone, in cui tutto il mondo ci dà degli untori, dal punto di vista dell'immagine del paese, e non parlo di Juve-Inter, ma parlo dell'immagine di tutti noi italiani, sì, era un autogol clamoroso. Non che lo spettacolo successivo sia al massimo. No! Certo che lo spettacolo, però secondo me, secondo me qui il vero problema è stata la forma, è stato il fatto che questa decisione non la puoi prendere sabato mattina, perché se la prendi sabato mattina, e poi è chiaro che infatti, nel paese dei malpensanti passi da parte del torto al 100%. No? È quello che le regole, fermo resta- le regole. Sì, infatti, fermo restando, sì, però Ciccio, le regole, onestamente, in questi giorni sono regole che cambiano di continuo, ma non, ma per, non per cattiveria, in tutti i paesi, cioè la Svizzera. Ho capito, ma qual è l'elemento che ha fatto cambiare? Scusami. Qual è l'elemento che ha fatto cambiare, ha fatto saltare una partita programmata a porte chiuse? Che pensavano, che pensavano che lunedì si potesse giocare a porta aperta, ma non è andata vuol così. Vuol dire che praticamente prima della scadenza, addirittura della prima settimana, si sarebbe potuto giocare. Quello teoricamente, ma, quello teoricamente ma c'era. È, ma no, ma sono d'accordo con te, Ciccio. Ma certo, ma tutto è una forzatura e tutto è sbagliato. E ma, ribadisco. Ma Pier, ma tu pensi che, adesso onestamente, ma tu pensi che non si debba dar ragione a Burioni che dice... ci auguriamo che non venga giocato a porta aperta. L'ho appena detto. Ho sentito. L'ho appena detto, figurati. Già lunedì prossimo, ragazzi, qua ogni giorno c'è un aggiornamento. Già lunedì prossimo sarebbero quindi due settimane di attività di contenimento del contagio, già può essere un discorso diverso. Già sarebbe una bella notizia. Però io non ho certezze, non ce l'hanno i virologi, ce le posso avere io, allora, per carità. Intanto stanno arrivando tonnellate di messaggi. Ne leggo uno. Marotta contrario perché Conte non vuole giocare contro Juventus, Napoli e Getafe nella stessa settimana. Posso permettermi di dire che non è questa la chiave di lettura, perché è una vicenda che va oltre la semplice gestione di campo di un allenatore. Conte magari non è contento. È che l'Inter voleva giocare, vorrebbe giocare Inter Sampdoria weekend. Eh sì. Quindi non è che non vuole giocare tre partite, è chiaramente c'è un tema di difficoltà delle partite, secondo me è legittimo. Lunedì scorso, dopo il primo weekend di panico dove qualche partita è saltata, qualcun'altra no, c'erano tutte le condizioni, certo, per sedersi a un tavolo, fare la lista delle priorità. La lista delle priorità è salute pubblica, per il discorso che abbiamo detto prima. Quindi a quel punto faccio giocare le partite a porte chiuse, finché le autorità sanitarie non mi fanno giocare le partite a porta aperta, ci auguriamo prima possibile. Ma qui ci si prende in giro, perché almeno per un mese i contagi cresceranno, perché è accaduto così in Cina, poi scenderanno quando le misure di contenimento diminuiranno. E detto poi questo, c'è tutta una serie di incongruenze, perché insomma è vero, io l'altro giorno ho fatto Napoli-Torino, c'erano sicuramente le tifosi arrivati da Torino, so che a quelli dell'Atalanta è stata misurata la temperatura. Hanno anche a me, oggi te l'hanno misurata la temperatura? È da ieri che volevo dare un aggiornamento, la temperatura. Anzi, 36,2 in tempo reale, 36,4. Però tocchiamo sempre fermo. No, Ciccio, hai la febbre? No, tutto bene, tutto a posto. Tocco anch'io i marroni, il termometro, però va bene, però ora come ora no. Non perdiamo il sorriso nemmeno nei momenti difficili, però è chiaro che la questione è grande, no? E soprattutto ha dei contorni e dei confini che, voglio dire, se i virologi non sono in grado di stabilirli, figurati noi se siamo in grado di sapere quello che succederà. Quindi il problema veramente, cioè, o se no si dice che si ferma tutto, infatti l'alternativa si gioca quella, a porte chiuse e poi pian piano si riaprirà. Si recuperano le partite secondo un ordine cronologico. Guarda, mette al passo rispetto a quelle che sono posso dire che il problema del calendario. Scusate, ma la prima, adesso, ora io vedo tutti quanti indignati per questo rifiuto dell'Inter, ma quando quando è stato posto il 13 maggio col famoso, coi famosi, le famose tre partite Atalanta, Juve e Napoli, ma nessuno ha avuto questa forma di reazione. Io ripeto, per me esiste la salute, questa è la cosa fondamentale. Dopodiché vogliamo andare a un aspetto pratico di un qualcosa che è nettamente inferiore, ovviamente creatività commerciale, economica, punti di PIL, benissimo, vogliamo valutarlo? Bene, facciamolo secondo delle regole. Le regole sono che esiste un calendario, le regole sono che purtroppo sono state, siamo andati oltre perché c'era una partita da giocare che non è stata giocata. A quel punto si cerca di attenerci il più possibile alle regole. Questo è fondamentale. Sì, aggiungo, noi ieri abbiamo dato con 3.000 condizionali, perché a quell'ora, cioè intorno alle 15, girava l'ipotesi di Juve Milan di Coppa Italia a porte chiuse, poi la regione Piemonte ha detto altre cose, poi vedremo cosa succede da qui a domani sera ore 20:45. Che si giochi a porte aperte, Juve Milan di Coppa Italia. Possiamo esprimere, sì, perdonami Pier, possiamo esprimere un parere. Chiaramente anche lì, se si giocherà a porte aperte, perché delle autorità hanno preso le decisioni di giocare a porte aperte, perché avranno valutato che in Piemonte e a Torino ci sono meno rischi, esattamente come stanno facendo tutti in questo momento, e difatti tutti vengono più o meno criticati. Fatemi salutare Ciccio Valenti, ciao Giacomo. Vi saluto, vi abbraccio. Ciao. E saluto anche Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Antonello, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Com'è andato il padel con Boniek, al quale facciamo gli auguri? 64 anni oggi, vero? Sì. Boh. Però è ad Amsterdam, non è quella foto che ho postato oggi. Ah, di repertorio, d'archivio. È una foto di repertorio, vedi com'era giovane Boniek, te lo vedi adesso. Comunque quelli nati a marzo c'erano proprio un altro. Vabbè, scusa, dicevamo? Quindi, come la vedi tu? Ma senti, io penso che la Serie A, a differenza peraltro delle altre componenti del calcio, parlo della Serie B, della Serie C, dei dilettanti, sta dando un'immagine pessima del mondo del calcio, che appare sempre di più un mondo a parte. Ci sono i medici, gli infermieri, i volontari che fanno turni massacranti negli ospedali, la gente in quarantena, e noi stiamo a litigare su le porte chiuse o le porte aperte, offrendo uno spettacolo veramente interno. Tra l'altro, in Lega, dove è sempre stato difficile trovare un equilibrio tra le varie componenti della Lega, è saltato, secondo me, quel difficilissimo equilibrio che pure c'è stato tra l'anima sportiva e l'anima commerciale della Lega. Probabilmente anche l'inesperienza di qualche neo dirigente, però è inaccettabile il tono volgare, aggressivo, veramente inqualificabile, con il quale è stato attaccato il presidente della Lega d'Alpino, da loro votato, dalla maggioranza della Lega votato, dal patron dell'Inter. Io so che la federazione ha aperto la consueta indagine. Sì, consueta indagine, non sempre, perché ogni tanto passano giornate e settimane. Posso fare la mia domanda candida che ho fatto anche ieri, visto che ho qua i tre massimi esperti di politica sportiva. Valentini, Bernazzo, Capuano, allora siete proprio la mia Bibbia di politica sportiva. Mi spiegate questo cortocircuito? Cioè, l'Inter in Lega ha un peso, perché ha comunque due figure nel consiglio, cosa che per esempio non ha la Juve, non ne ha neanche una. Mi spiegate perché l'Inter litiga con la Lega? Cioè, quindi D'Alpino ha fatto tutto da solo, secondo voi? Perché è strano, no? Sicuramente lui che ha fatto, c'è un peccato originale. Lo dice lui che ha fatto, sabato ha fatto da solo, è lui che nella prima risposta Marotta dice: da statuto la decisione di in quel caso rinviare le partite dipende da me e io l'ho presa, che può anche essere una bella notizia avere un presidente che fa il commissioner, se non fosse che la settimana prima si è rifiutato di farlo, ad esempio per spostare Atalanta-Lazio, e il nostro è un mondo di retroscenisti, complottisti, e che giustamente chiederebbe anche una coerenza di comportamento, cosa che in questo caso D'Alpino nell'arco di una settimana su una vicenda molto più semplice e una molto più complicata come non si ha risolve avuto. Ieri Barone voleva il commissioner, guarda, secondo me la Lega di D'Alpino avrebbero dovuto tenere fermo con grande coerenza e semplicità la prima decisione di giocare alcune partite a porte chiuse. A questo punto non resta che seguire l'ordine cronologico delle gare per non far saltare e mandare a carte 48 tutto il campionato e la sua credibilità. Quindi mi auguro che domani, quando ci sarà l'assemblea, si raggiunga questo accordo. Di ragionevolezza, anche perché noi continuiamo giustamente, anche per motivi economici eccetera, a parlare di Juventus e Inter, Ma io no, ma c'è tutto il resto. Anche Degutinese, ma che scherzi? Ma guarda che lo sfogo di Liverani, lo sfogo di Liverani, al di là dei toni, anche lì, però ha ragione. Cioè, tu stai lottando di essere tutelate e di farsi il loro campionato e di giocarsi le loro carte. Ma infatti possiamo dire che la proposta di ieri, che non è certamente perfetta, però rispetto all'abominio del 13 maggio è un passo avanti, assolutamente, perché il 13 maggio è inaccettabile. Adesso almeno si va avanti in maniera progressiva col calendario. Ma io aggiungo questo, se posso. Cioè, al di là di quale strada si segua, a me non me ne frega niente ora se si segue il calendario, se non lo si segua. Siccome è stato alterato l'equilibrio, è stato alterato quello che era il calendario originario. Ora, dal mio punto di vista è fondamentale che domani si esca con una decisione all'unanimità, e sottolineo all'unanimità, che ripristini un equilibrio ordine. E se uno dice no, che appunto, facciamo? Se uno dice no, il campionato non si può più andare avanti. Ma sospendiamo? Se uno dice no va in minoranza e si becca le decisioni della maggioranza. Però, ripeto, secondo me a questo punto di caos il male minore è quello di riprendere in ordine cronologico seguendo la sequenza originaria del calendario, altrimenti veramente io credo ed è il mio parere, perché se vogliamo allora seguire alla lettera le regole, Juventus-Inter non si gioca il 9 marzo, perché il 9 marzo si gioca Inter-Sampdoria, perché c'è un regolamento che mette una cronologia, se proprio vogliamo essere fare i forensic, e quindi se ragioniamo in punta, quindi di diritto, questo è Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria va recuperata prima di Juve-Inter, se proprio vogliamo attaccarci al regolamento. Io credo che la soluzione partorita ieri sera, io credo che l'ipotesi di accordo di ieri sera, prima che fosse bombardata dal messaggio di Steven Zhang, è la soluzione giusta, accompagnata a un gesto di rottura, perché chi ha creato il casino sabato con quel comunicato non può poi intestarsi la soluzione del problema in cui ha messo il calcio, che è un tassello di tutto il problema paese che stiamo affrontando, ma noi di questo sulla ci occupiamo. Quale, scusami, sulla soluzione del problema chiedo a Valentini, che è un esperto di cose di federazione, mi risulta che ci sia stata un lavoro di grande mediazione da parte della Federcalcio, da parte di Gravina. Sì, beh, io so per certo che Gravina si è speso e si sta spendendo, anche se in questi giorni, in queste ore ad Amsterdam per il congresso della UEFA, anche per occuparsi dei problemi della nazionale e degli europei 2020, di cui, se volete, poi possiamo anche parlare un attimo. Si sta spendendo per trovare una soluzione di buon senso e di ragionevolezza, perché le latitanze di questi giorni è il buon senso, secondo me. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Credo che sia onestamente, cioè, adesso qualsiasi soluzione trovi non sarà mai perfetta. Soluzione perfetta non c'è. Però, insomma, mi sembra che si stia cercando di fare uno sforzo per portare a casa il campionato, perché sennò, ragazzi, qua il campionato non finisce. Ma già oggi teoricamente c'è una squadra che fa 37 partite, certo. E anche questo è un cortocircuito, io credo, difficilmente accettabile nel momento in cui a tavolino si decide, cosa che è stata fatta sabato mattina, di sospendere metà di una giornata, sapendo che non c'è in teoria lo spazio per recuperarla, se non scommettendo contro il risultato sportivo di una squadra, perché giovedì ad esempio c'è un ritorno di Coppa Italia e teoricamente al sistema Antonello servirebbe che l'Inter andasse fuori. Capisci il cortocircuito? Sì, certo. che si innesca, no? Assolutamente. Ma senza offesa per il Napoli, il Napoli probabilmente meriterà di andare avanti, ma che senso ha che il sistema debba sperare che l'Inter esca col Getafe o comunque prima possibile dell'Europa League? È un cortocircuito che ha dei responsabili. Adesso si cerchi il buon senso, ma secondo me il buon senso deve essere accompagnato da un atto di rottura per chi il pasticcio l'ha creato. Grazie Antonello. Grazie a voi, buona ciao. Giornata. Grazie, grazie Antonello Valentini, 800 24 00 24. Vedo due Massimo, si chiamano Massimo tutti e due. Massimo Giletti Udine. Massimo Udine. Massimo Udine. Vai. Sì, vai. Mandi. Mandi a voi, grazie per l'istituto in Friulano, bravissimi. Allora, diciamo che non avete ancora ricordato il fatto che l'alibi dell'Inter è l'incombente europeo. Non è l'alibi dell'Inter, però perdonami, l'europeo sta lì per regola. È la data finale della stagione, che forse cambierà, perché poi tutto questo, scusami Massimo, ti ridò la parola subito, in questo congresso ad Amsterdam, vista l'eccezionalità della situazione, secondo me si sta anche ragionando sulle date, magari le nazionali avranno tutte in tutti i paesi qualche giorno in meno, 4-5 giorni in meno, e si arriverà al mercoledì dopo, perché ragazzi qualcosa bisogna inventarsi. Vai Massimo. Ancora meglio. Io parlo da abbonato, non dell'Inter ma dell'Udinese, parlo contro il mio interesse e ricordo la massima latina: Ubi Maior, minor cestat. Noi abbonati perderemo qualche partita per un bene, diciamo, più importante del calcio, e lo sappiamo, e c'è poco da fare. Però l'Inter si crea degli alibi. Vogliamo che l'Inter giochi, come si chiama, Juventus-Inter venga giocata alla fine dopo tutte le partite? Nessun problema. Tanto magari a quel punto la Lazio avrà più 4 rispetto sia alla Juve che all'Inter, e quindi tutti a casa. Questo è il mio punto di vista. Io non credo che sia solo una questione di campo. La sintesi, insomma, abbiamo provato a farla prima, e quella della data dell'Europeo non è un alibi, ma è un problema per tutti, e ne stanno parlando in queste ore ad Amsterdam, così come gira la voce che si possa modo sospendere la pausa per le nazionali, le amichevoli, quella di marzo, cosa che non esiste perché ci sono anche i playoff per andare all'Europeo, quindi ci sono giocatori importanti che dovranno andare in nazionale e non a fare un'amichevole, certo. E non è pensabile che possano non rispondere alla convocazione. Massimo Verona, Massimo. Eccomi qua, buongiorno a Vai. Tutti, grazie per la convocazione. Niente, io volevo esporre un problema più concreto nel mio piccolo, visto che un ragazzo che è in squadra con noi adesso è in quarantena. L'hanno messo in quarantena, ma non perché abbia il coronavirus, semplicemente perché lavorando in ospedale è stato a contatto, eccetera. Quindi non so se vale la pena continuare anche nelle categorie così inferiori, dilettantistiche, giocare, posticipare, eccetera. Forse è il caso veramente di darsi un attimo uno stop, in modo tale da fare il punto della situazione. Io credo che adesso non ho la contezza assoluta, ma io credo che nelle categorie da un certo punto in più, soprattutto quelle giovanili, sì, l'attività giovanili, sia fermo, fondamentalmente ferma. Sì, almeno nelle principali. Un figlio che gioca a basket è fermo. Anche il calcio posso dire. No, ma è assolutamente. Però questo secondo me vale per tutti. Cioè, se domani mattina arriva il presidente del consiglio, faccio un esempio, magari con Mattarella vicino, e dice, col ministro della sanità, e dice: ragazzi, il campionato non può finire perché noi adesso per 2 mesi dobbiamo stare fermi. Cioè io credo questo principio, però, ovviamente non succederà, ma questo principio, diciamo, della priorità dell'interesse sanitario nazionale vale a prescindere. All'interno di questo principio poi bisogna trovare una quadra, e ribadisco, Juve Inter secondo me la mettessero in calendario dove la possono mettere, poi comunque sarà sempre l'autorità sanitaria che dovrà a decidere dire se come si gioca a porta aperta o porta chiusa. Allora, se giocano lunedì, cioè se dovesse durare l'emergenza. Ma è ovvio che si deve giocare a porte chiuse lunedì, però almeno c'è una data, ecco. Abbiamo la borsa, un minuto, torniamo. Però adesso veramente lo spettacolo è imbarazzante, cioè che qualcuno decida anche a livello governativo e si faccia quello che si deve fare, ma basta. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Terra hanno fatto una riunione e tutti all'unanimità hanno detto: se ci sono problemi di virus giocheremo a porte chiuse tutti. Solo che in Italia noi abbiamo il clown che decide, perché ha detto: io ho deciso per tutti. Secondo me l'amico era tifoso dell'Inter o era parente di Zanga. Allora, intanto, rapidissima rettifica, perché l'amico di prima ci ha detto: guardate che continuano a giocare i dilettanti, gli abbiamo detto di no, in realtà Macchia di Leopardo hanno giocato anche in queste settimane, non ovunque, ma hanno giocato a Macchia di Leopardo. Pier. No, stavo dicendo che mi è venuto in mente questa cosa, che anche il mondo dell'azzurro è diviso, no? Credo che per esempio Mentana abbia detto, insomma, che quest'uscita di Zhang non aiuta l'Inter. Io credo che in generale non aiuti il lavoro, sì, di Marotta, no? I toni, secondo me, io poi penso, allora, guarda, Zhang è un grande... Io posso dirti che, avendolo visto anche con Giovanni in varie situazioni, insomma, credo sia un dirigente molto capace, sarà non molto c'è dubbio, utile nel mondo del calcio. La quantità di soldi in Italia nel calcio italiano clamorosa, quindi, diciamo, questo va detto. Però va detto anche che è una scivolata, e questo non si fa. Dopodiché, che non aiuta, ma non ci aiuta sono l'Inter, sedi, secondo me, le cioè. Sedi e dovranno essere fatte valere, sono d'accordo con Giovanni, perché chi ha sbagliato si prenda le sue conseguenze e non passi tutto in cavalleria come se solitamente si fa nel calcio italiano, perché chi ha messo nelle condizioni l'Inter al di là di come andranno a finire le altre cose, di dover uscire dalla Coppa Italia o dalla Europa League per poter giocare la 38ª partita, ha fatto un errore, certo, e non può gestire una lega che vale un miliardo però e mezzo. La verità è anche questa: perché in Inghilterra, di fronte a questo problema, si riuniscono, trovano una soluzione e da noi no? E da noi no, e da noi c'è, perché c'è uno che decide. Faccio l'esempio: Atalanta-Lazio. L'Atalanta chiede che venga anticipata la partita, e fra l'altro, una partita prima di quella della Champions League. E lo chiede allo Tito. E lo chiede e lo Tito gli dice di no. Tanto per fare un esempio, è l'unico. Cioè, ma questo vale per tutto, non vale solo per l'Atalanta e per la Lazio. Perché vale ci deve per tutti, essere cioè, un commissioner che decide e che nel momento in cui prende la decisione sbagliata si dimette e se ne va. Allora, a proposito di dimissioni, licenziamenti, adesso parliamo del Milan. Il libro delle scuse con me a poche pagine. Se sei arrogante sei fuori, se sei un cretino sei fuori, se fai troppa teoria sei fuori. Regola numero 10: il boss ha sempre ragione, anche quando ha torto. È difficile quantificare il tempo, è difficile quantificare investimenti, è difficile quantificare tante cose, quindi certamente ci vorrà del tempo per arrivare lì. Se si arriverà e chi arriverà non lo sappiamo, se saremo noi. Noi cercheremo certamente di fare tutto per far sì che Milan migliori al più presto possibile. Sei fuori. Grazie. Copertina di grande livello anche questa, sì. Carissimo Pier, saluto Gianmarco Tognazzi, ciao Gianmarco. Ciao a tutti. Allora, personalmente trovo inevitabile ma scioccante l'addio, licenziamento, poi vedremo sotto che forma giuridica verrà posto, di Maldini e Boban dal Milan. Molto semplicemente uno dei punti più bassi della storia societaria rossonera di tutti i tempi, a mio avviso. Mm. Ma ti fidi di Gazzidis o no? Ridicola, paradossale, vergognosa. Questa è la sintesi, visto che io non sono un uomo di sintesi, da parte ovviamente della proprietà. Come io purtroppo già ho manifestato in tutti i miei tweet, in tutte le discussioni con i tifosi rossoneri che criticavano l'operato di Boban e Maldini già da quest'estate, non rendendosi conto che i diktat sono stati dati appunto dalla proprietà. Quindi la scelta di Giampaolo è una scelta obbligata, perché esclusi tutti gli allenatori di primo livello che erano stati proposti e via di seguito, quindi era inevitabile che con un atteggiamento dove non si capisce perché abbiano voluto una figura come quella di Boban e quella di Maldini, per poi metterli in condizione di non poter fare, al di là della loro inesperienza, il loro lavoro, se non all'interno di alcuni paletti, per poi arrivare a questa degenerazione provocata oltretutto, perché mi sembra evidente che ci sia una provocazione. Tu non fai uscire una notizia di uno che forse viene a sostituire l'allenatore e il ruolo di Boban a giugno, mentre la squadra si sta riprendendo, e poi ti lamenti del fatto che l'altro ti risponda, a parte che l'avrà fatto anche privatamente, sui giornali. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma che pagliacciata è questa? Cioè, mi pare di capire che l'idea del Milan straniero non ti piaccia. Così, ma non è una questione, del Milan straniero che non mi piace. Io ho sempre pensato che il Milan, per riprendersi, abbia bisogno di quello che per 30 anni ha avuto, cioè continuità. E tutto quello che si sta facendo, qualunque proprietà, l'ultima parte Berlusconi, i cinesi e anche Elliott, tutto quello che stanno facendo continuamente è non dare continuità a un progetto. Fine. Quindi, io credo che hai ragionissima. Hai ragionissima, la continuità. Guarda, poi questo è proprio l'anno della continuità, nel senso che le due squadre. Lazio e Atalanta non sempre succede questo, però questo è l'anno nel quale veramente il campionato e la Champions stanno dando ragione alle due squadre che hanno puntato sulla continuità, sul fatto di non snaturarsi e di crescere pian piano senza fare voli pindarici. Qui mi sembra un po' la cronaca non di una morte ma di un addio annunciato, di un divorzio annunciato, perché quello che ha detto Gazzidis, quello che è stato fatto a livello di ingerenza nell'area tecnica, l'intervista di Boban, oggettivamente l'intervista di Boban l'altro giorno è una sorta di dimissione anticipata, questo va detto, perché insomma non è che se io non lo so, non lo so, non lo so. Beh, sì, no, sinceramente io me la sono riletta Era un modo per chiedere, per capire quale fosse il contendere, sinceramente non riesco a capire la permolosità di Gazidis a cosa si voglia appellare. Beh, Gazidis, Boban ha detto alla proprietà: fuori Gazidis, ci sto io, comando io lui. Quindi Gazidis, la proprietà, ma ragazzi, scusate, non, io ho riletto l'intervista ieri sera proprio perché non riuscivo a trovare il bando della matassa. Non è vero che dice questo, assolutamente no. Dice: se ho un ruolo, quel ruolo è il ruolo mio. Scusa, se no non me lo dai quel ruolo. Il problema è che pare ci sia un contratto già firmato con il prossimo allenatore manager, evidentemente passando sopra la testa. Oggi la Gazzetta dello Sport dice c'è anche la penale se non dovesse essere depositato, passando sopra la testa del responsabile dell'area sportiva e quindi delle due l'una. Qui c'è un problema originario. Elliott entra e prende il Milan per poco, per circa 300 milioni, che erano i soldi che aveva prestato al cinese, e pensa di poter fare un buon affare, sottovalutando quanto sia complicato fare affari nel mondo del calcio quando determinate cose non funzionano, quando non si allineano risultati sportivi e risultati economici. Delega la cosa a Gazidis, che era abituato comunque nell'Arsenal ad avere un mercato che gli permetteva, anche in assenza di vittorie, di allargare i ricavi, e nel Milan e nel calcio italiano questo non è stato possibile. Questo sta creando chiaramente una complessità, perché il Milan, e questo non va mai dimenticato, è una società che brucia dai 10 ai 15 milioni al mese. E la ricerca dell'equilibrio di bilancio è sacra, ma aggiungo io, perché oggi questo scrivono i giornali, scrive la Gazzetta dello Sport, l'abbassamento del tetto salariale a 2 milioni di euro, il Milan, se il suo tetto salariale è 2 milioni di euro, semplicemente non è più il Milan. Diventa un'altra cosa, anche la seconda, sono andato a guardarmela, anche la seconda Inter di Toir, anno 2014, quindi un Inter lontanissima da quella che oggi, aveva 6-7 giocatori al di sopra di quello stipendio. Io non so se Gianmarco era segnato a perdere Donnarumma, Ibrahimovic... Ibrahimovic è la conseguenza del fatto che viene e che dimostra che il progetto tutti i giovani, sportivamente parlando in Italia, è molto complesso e ha bisogno comunque anche quello di continuità, e che arrivando Ibrahimovic cambia anche il rendimento di quei giocatori che erano stati dati per bollati e bolliti. Quindi questo dimostra che l'intuizione prima di Gattuso, non raccolta, tant'è che ha dato le dimissioni, poi quella non raccolta da parte di Boban e Maldini nella prima parte, con il mercato estivo fatto solo di giovani, e per poi andare invece a recuperare attraverso la figura di Ibrahimovic, che rimarrà solo ed esclusivamente nel momento in cui queste figure erano in qualche modo la garanzia, sono coloro che lo hanno in qualche modo convinto a sposare questo progetto di chioccia e che stava dando i suoi frutti. Quindi il momento è totalmente sbagliato. Poi quello che succederà ormai con Donnarumma, con Raiola, è la pagliacciata, è stata messa in atto. Complimenti a Elliott, complimenti a Gazidis, spero che i tifosi e che la curva inizi, come dire, non dimentichiamo che i 55.000 presenti fissi di quest'anno sono dati da un entusiasmo che è legato enorme, a una cosa sola, la maglia. È legata soltanto alla maglia e alla bandiera, e le bandiere sono il signor Maldini, il signor Boban e in questo caso come giocatore Ibrahimovic, che si è ripreso in qualche modo il testimone di tutti quelli che hanno abbandonato il Milan, e infatti il Milan è morto il giorno che sono andati via Ibrahimovic e Thiago Silva. Sì, estate 2012, con ieri io direi si è staccato definitivamente il cordone ombelicale tra il nuovo e il vecchio Milan. Grazie Gianmarco. Ciao. Noto che il linguaggio, grazie Gianmarco Tognazzi, circense sta prendendo piede tra clown e pagliacciate. Purtroppo. Mi dici in un minuto cosa succede alla Roma? Beh, per fortuna a Roma ci siamo, tra questione di ore, insomma, Friedkin firmerà il preliminare. Tra l'altro si è andato talmente in profondità nell'analisi che potrebbe valerci anche semplicemente un mesetto per il closing e non i 3-4 mesi che servono per far questo, circa 700 milioni alla fine la valutazione del club, e con tutta la serie di incognite e anche un po' di paura in questi ultimi giorni, insomma, perché gli americani erano un po' spaventati da quello altro dalla reazione alla Lega, della Lega Calcio al coronavirus, però okay. Ovviamente i contratti sono stati firmati, non credo che ci avrebbero ripensato, però insomma non ci abbiamo fatto una bella figura, e spero che non abbiano troppo timore nel mettere piede in una realtà dove intendono investire e fare molto. Noi abbiamo il traffico, vero? Noi abbiamo il traffico. Di Mari che ti fa una domanda su Friedkin. Allora, Friedkin. Abbiamo il traffico, Friedkin. Torniamo, abbiamo anche Vincenzo Pincolini. Ah, certo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. convocati. Intanto Superbike ufficiale ha rinviato il round 2 in Qatar, gare che erano in programma il 13-15 marzo, oggi si è parlato anche di spostare le Olimpiadi, domani ne parliamo di questa vicenda perché non c'è solo il calcio. La domanda è questa, Friedkin, dai primi exit poll, dai comportamenti precedenti, sarà diverso, domanda da palla di vetro, rispetto a Pallotta, cioè americani sono, ma sarà un presidente che andrà a investire di più, più presente? No, più... Sicuramente più presente, teniamo conto che ne abbiamo sempre parlato di Pallotta, ma in realtà la società che sta dietro alla Roma ha più soci, più di 20 soci, tant'è che si dovranno dividere questi 80 milioni di plusvalenza che comunque fanno. Pallotta ne guadagnerà una quarantina. Beh, se sono problemi andarla a dividere. No, penso che gli americani abbiano già fatto tutti i conti. È un presidente che vuole investire molto, che soprattutto ha delle idee di sviluppo dello sport, dell'entertainment, delle infrastrutture legate allo stadio, del turismo, del golf, insomma, e quindi ha tante idee, ma anche, ripeto, qualche preoccupazione su quello che potrebbe essere l'ambiente, il clima che potrebbe trovare nei prossimi mesi in Italia. Alessandro da Bari, Alessandro. Sì, buonasera. Vai. Ciao. Allora, io ho due considerazioni volevo fare. La prima, credo che tutto questo, diciamo, trambusto del calendario sia semplicemente una coda delle troppe partite che si fanno, questo a causa di tutto il discorso televisione, che vogliamo avere le partite quasi ogni giorno. E questo potrebbe essere evitato, forse, probabilmente, diminuendo almeno un paio di squadre nella Serie A. Partendo almeno da questo. Poi la seconda cosa, non so se secondo voi è il giusto pensiero, però probabilmente la partita Juve-Inter potrebbe essere stata rinviata anche per una polemica nata in merito ai biglietti, non so se avete sentito. Cioè, qualcosina abbiamo sentito. L'incasso, la Juventus che non voleva rinunciare all'incasso. Ragazzi, io credo che generale, nessuno sia contento di rinunciare a un incasso, tantomeno. Non scherziamo, in generale... Questo voglio dire, è chiaro poi che ci può essere il vantaggio della squadra fuori casa a giocare a porte chiuse, ma in generale per il bene del calcio, soprattutto le grandi partite, ma non solo le grandi partite, tutte le partite sono meglio a porte aperte. L'Inter pure ha avuto un danno perché ha giocato contro il Ludogorets in casa a porte chiuse. E io ricordo una polemica simile due anni fa per lo spostamento del derby di Milano in casa Milan, che ci fu una grande polemica sul rimborso. E insomma, noi dobbiamo dire che poi fondamentalmente i club di calcio sono delle aziende, hanno dei bilanci spesso in sofferenza o comunque sia che hanno bisogno di essere supportati dagli introiti e non è semplice rinunciarci. Infatti il sacrificio che si chiede con le porte chiuse, così come i danni che stanno arrivando a tutte le aziende in tanti altri settori, dovrebbero essere compensati con i crediti d'imposta, con i provvedimenti del governo, perché tu dai un contributo alla salute pubblica avendo un danno economico, in qualche modo c'è un piccolo risarcimento. Massimiliano Udine, Massimiliano Pincolini, abbiamo problemi, lo chiamiamo domani. Massimiliano. Sì, buongiorno, volevo intervenire sul fatto delle partite che hanno. Io sono tifoso juventino e secondo me hanno fatto bene a sospendere le partite, perché la decisione erano tre quelle da prendere, o giocare tutti a porte chiuse o tutti a porte aperte o sospendere tutto. Secondo me l'Inter avrebbe avuto un vantaggio e tutte le squadre che si sono lamentate sono quelle che giocavano in trasferta, quindi secondo me dovevano giocare tutte a porte chiuse o fermare tutto, chiuso, quello lì, secondo me. Questo è, voglio dire, questo è un ragionamento, diciamo, più complesso, e ci sta, cioè nel momento in quale si usa questa parola del campionato falsato, è chiaro che è pure falsato un campionato dove in certe regioni si gioca con l'aiuto del pubblico e in certe regioni invece no, soprattutto se la cosa dovesse durare per un lungo periodo. Io, ragazzi, risposte, certezze non ne ho. È chiaro che le modalità della decisione, per come è stata presa, quando ne era stata presa un'altra di segno completamente contrario, sono difficilmente accettabili, perché io credo che non si siano lamentati solo quelli che giocavano fuori casa, c'è chi si è lamentato di più o di meno, ci sono tanti che si sono lamentati, c'è chi è stato zitto, c'è chi ha parlato prima. Agnelli qui in questo studio ci ha detto prima di tutto viene la salute pubblica, accetteremo le decisioni. E poi c'è quell'atto di sabato che di fatto ha creato questo cortocircuito stiamo discutendo da tre giorni oramai. No, parliamo poi di danni di immagine. Immaginate Juve-Inter si gioca a porte aperte e dopo si viene a sapere che ci sono stati dei contagiati durante quella partita. Cioè, pensate a quel danno di immagine. Sì, ma a questo punto noi restiamo che vediamo quando la fanno giocare e in che condizioni. Simone da Perugia Urbino. Pesaro Urbino. Sì. Sì, da Fano. Buongiorno, no, volevo solo far notare una cosa, che nessuno si è detto una parola, che penso il presidente della Lega aveva proposto all'Inter di giocare lunedì sera e l'Inter ha rifiutato. Ma se la Juve gioca domani con il Milan, no? Che data era? Com'era possibile? Perché nessuno ha detto niente su come nessuno cosa? Ha detto niente? Marotta, quando, scusami, faccio un po' di cronaca di quello che ho letto sui giornali in queste ore, quando c'è stata la polemica sabato, Dalpino ha risposto dicendo avevo chiesto a Marotta di giocare lunedì, e Marotta però ha detto che sì, gliel'avevano chiesto, ma hanno considerato irricevibile la proposta perché avrebbe portato allo spostamento della Coppa Italia, non della partita dell'Inter, ma della partita della Juve. Anche qui, e che legna puramente stilistica non è un problema di Marotta, uno potrebbe dirti no, i diritti della Rai, sì, certo. Dove va Juve Milan, che cosa succede? Però mi risulta che il Milan non fosse stato neanche preavvertito, avrebbero dovuto spostare, secondo me sono punto, un po' impazziti tutti in quell'ora, non Napoli Inter perché i tre giorni c'erano, no, quindi Juventus Milan che si gioca domani l'avrebbe da spostare a giovedì, punto, o la sposti nello stesso giorno alle 18:30, ma fai un danno alla Rai, cioè la Rai non accetterà mai ovviamente di perdere un prime time da 25% di share per fare le 18:30. Abbiamo 31 secondi alla fine del programma adesso, 28 28 secondi per darci la soluzione. Ci ha messo un po' d'angoscia con il fatto che a 55:00 dobbiamo chiudere. C'è Ferronato che ci fa tutti i gesti. Mancano 21 secondi, sembra Capodanno. intanto non ho capito, ma Juve-Milan, sì, Coppa Italia, si gioca a porta aperta per i piemontesi? Vengono da Lombardia, Emilia Romagna, da quelle regioni, Veneto e da due province che adesso non ricordo. Le scuole sono chiuse in Piemonte, forse, vabbè restiamo all'ufficiale, tanto abbiamo ancora 24 ore per parlare di Juventus-Milan. Noi ci fermiamo qui, stiamo ringrazio sforando. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, Marco Bellinazzo, tutti voi. Domani però la seduta è aperta, e perché noi non la chiudiamo per questo sforo di adesso 16 secondi 18 secondi ciao, nessuno ha detto 17. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy, saluti.